clangore d'ossa sinistre in riassetto, pettoruto, languore allo stomaco, lividi ai polsi slogati, a furia di batoste, parole come scudo e come baionette pungono dal maxingorgo biliare, smaltendo rifiuti, vocifera la parte che non trema come fosse d'un'altra, che magari fosse in guerra, alle urne magari lì io scavasse le fosse, ahimè, sensurne, lima sorda le ossa della mano. Scheggiate le ulne intabarrate nella siesta, ulne e radio si rinforzano in palestra cercando d'impossessarsi inconfutabilmente della femminea potenza di cui d'ogni parte si dice. Alla radio mi si addice il riconcepimento di me, questa festa disinfestazione, ma è pur sempre un fenomeno di riciclaggio che ha bisogno dello sporco. Guardo aggrupparsi sul divano il piccolo oggetto del suo amore puro che spurga continuamente da ogni orifizio sete di successo, brama di possesso.